Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è errare la zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Luciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È tornato Dell'Utri, è tornato Dell'Utri, sono iniziati i mondiali ed è tornato Marcello Dell'Utri. Ma non dirlo così triste. Questa mattina, al termine di una procedura complessa di estradizione, è tornato ed è stato trasportato a Rebibbia, credo, sì, Marcello Dell'Utri. Come here, Marcello. Marcello, come here. Ce lo ricordiamo mentre parlava del carcere nelle sue numerosissime apparizioni qui alla Zanzara, e ne sono ovviamente orgoglioso di aver ospitato più volte una persona che finisce in carcere per 7 anni con l'accusa provata ovviamente dai giudici secondo le regole di un paese democratico, ma comunque diceva Dell'Utri che si preparava in maniera tranquilla al carcere, ripeto, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Marcello Dell'Utri. Psicologicamente è una vita che sono diciamo preparato psicologicamente. Pronto al carcere praticamente. Che devi fare? Lo so. Ti ammazzi, detto, nella vita si affronta tutto. Quello che capita, quello che si può fare, si fa. Posso prendere per la mano e correre. Volano gli anni, 7 anni. Oh, guarda, è l'occasione per studiare, per leggere. Io amo per esempio l'ebraico, non sono mai riuscito a studiarlo. Pensi lei, quando uno mai si metterà a studiare l'ebraico, se non è in carcere è costretto, perché non ha niente da fare. Bentornato. Porterei una banana, perché mi piacciono le banane. Ma vabbè, quella però la può prendere in carcere direttamente, non è che se la No, perché poi lì ti fanno i controlli, quindi se mi fanno entrare. L'altra volta quando ci sono andato ho portato la Divina Commedia, ma adesso me la sono letta tutta, basta. Ehi, a te, tifoso razzista, io capisco tuo punto di vista, che uomo bianco non è come un nero. Vabbè, possiamo dire pure che Dell'Utri è il passato. Oggi ci sono i campionati del mondo di pallone. Ci sono i campionati del mondo di pallone e c'è stata una svolta clamorosa. La svolta è questa: con Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord, il grande capo della Lega, quello che ha risollevato la Lega dal disastro degli anni precedenti e l'ha portata al 6%, l'ha portata al Parlamento Europeo, insomma, che annuncia qui alla Zanzara: tiferò per l'Italia. Dopo anni di gufate a Radio Padania e di frasi contro il tricolore, magari non da parte di Salvini ma da parte di altri esponenti della Lega Nord, Salvini dice: questa volta tifo Italia. Cosa significa una paraculata? Il calcio comincia e finisce con Milan. Detto questo, io sono un buon politico perché perdo i voti degli altri tifosi, però la nazionale non mi ha mai entusiasmato per neanche da non ti farai detto Italia, questo, non ti farai Italia, ma no vabbè, però dai, meglio su l'Italia degli di altri chi? Ti farò Italia anche se il cuore me lo scalda il Milan o contro Benfica. Leviamoci ogni dubbio, amici miei, io sta simbologia la invertirei, un bacio in bocca contro un razzismo. Poi dice anche: al massimo ci vogliono 3 stranieri per squadra. Sì, perché un Milan fresco, giovane, italiano, sarà fuori moda? No, El Shaarawy, Poli, De Sciglio, Cristante. Sì. Cioè ti piace? Può, sì. Ma cioè, riuscirà in Zaghi? Io rimetterei il limite degli tre stranieri. Ah, io rimetterei il limite dei tre stranieri per squadra. Salvini, super nazionalista, gioca nell'Italia, chi è italiano? Non mi piacciono sti giochi dei passaporti, il doppio passaporto. Scelgo se giocare col Brasile o con l'Italia, con la Germania o con la Francia. No, gioca nell'Italia chi è italiano, punto. Se non è che se avevi il nonno che veniva da Pordenone o da Catania. No, non sono d'accordo. Insomma, caro Parenzo, a Salvini non piacciono gli oriundi, però c'è una svolta nella Lega. Salvini che dice tifo Italia rispetto al passato, no? Ci ricordiamo per esempio Renzo Bossi addirittura che diceva non guardo l'Italia. Ma Renzo Bossi appartiene ormai al passato. Però lo diceva, ma altri esponenti della Lega dicevano beh l'Italia è uno schifo, il tricolore. Tutto. Loro adesso hanno il nuovo nemico è l'Europa. Aspetta, senti Renzo Bossi. Bilderberg. Lei tifa per l'Italia mondiale, ti farà o no? Io onestamente non so neanche qualificazioni o qualificazioni perché non seguo. Non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità. Beh, c'era la nazionale della Padania, la nazionale della Padania. Abbiamo molta carne al fuoco oggi, anche tutta la situazione all'interno del Partito Democratico con le epurazioni. Però grande ritorno alla Zanzara, il vero Luciano Moggi. Ciao Luciano, come stai? Ciao, ma state facendo una confusione. Perché confusione? Da quale? Ma questo qui è quella volta con Pippo Baudo, dici tu, Luciano. Vediamo se è il vero Moggi. No. Vediamo se è il vero Moggi. Lasciamo stare Pippo Baudo. No. Vediamo se è il vero Moggi, piccolo test, perché secondo me è Mercù. Vediamo se è il vero Luciano. Voglio vederlo. La Juve sono un branco di ladri. Vediamo. No, non reagisce, dunque è lui. Luciano, come stai? Io sto bene. già ride. Vabbè, innanzitutto hai pubblicato sto libro, Il pallone lo porto io, Mondadori. Ma sai il titolo da dove viene? Da dove viene il titolo? Viene da un fatto importante, le grandi lotte che facevamo a Roma, no? Tutti dicevano praticamente l'arbitro qui, l'arbitro là, e un giorno lo dissi prima di una partita. Poi portate l'arbitro e io porto il pallone. Ma tu lo sai ieri che durante Brasile Croazia, su io Twitter, sui social network, io ti favo per la Croazia, tutti si sono scatenati paragonando addirittura il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, ti dico una cosa che magari non sai. A un certo punto ha scritto Moggi nel momento in cui è stato dato il rigore al Brasile. Cioè praticamente ti ha paragonato al puparo, a quello che ha organizzato, secondo lui ovviamente, il tranello, diciamo la truffa, chiamiamola così, ai danni della Croazia, diciamo, capito? Il direttore di Rai 1 ha scritto Moggi mentre veniva dato il rigore, poco dopo il rigore dato al Brasile, capisci Luciano? La penna non l'ha morsicato, no? Di solito quando si dice sono le stupidaggini, Moggi faceva le squadre. Adesso voglio vedere quello che succede tra la squadra che ha vinto il campionato del mondo nel 2006 fatta dal sottoscritto e quella di adesso. Vediamo. E poi questo è il calcio che vuole il direttore di Rai 1. No, però voglio dire, cosa vuoi dire al direttore di Rai 1 che appena hanno dato il rigore? Ecco. Mi fa pena. Ti fa pena. Vabbè. No, però voglio dire, è clamoroso. Io però devo dire la verità. Sì, però io no, sarà pure entrato nel dizionario dei sinonimi di contrario. Io però voglio dire una cosa in difesa di Luciano Moggi, che ho sempre difeso e me ne sono sempre sbattuti i coglioni di tutto quello che hanno detto su di lui e di tutte le accuse che hanno fatto. Il direttore di Rai 1 Leone, che io conosco e che per carità è una brava persona, si è adeguato al politicamente corretto, si è adeguato alle cose più scontate del mondo, cioè mettere come simbolo delle ruberie, degli arbitri che danno i rigori che non ci sono a Luciano Moggi, perché se uno gli scatta la mano su Twitter e scrive Moggi quando viene dato il rigore al Brasile, beh, come può essere definito, Luciano? Senti, lasciamo perdere come può essere definito, ridiciamo a questo signore che si legga le motivazioni dell'appello, dove sta scritto dell'appello di Napoli. dove sta scritto che il campionato era regolare, nessuna partita alterata, il che vuol significare che nessuno ha provato a alterarle e nessun arbitro ha dato favore alla Juventus, anzi ha dato il contrario, perché se dovessimo parlare di quello che è successo, vabbè, poi... quando ha vinto la Roma e quando ha vinto la Lazio, il famoso alluvione di Perugia, è meglio che sia zitto il direttore di Rai 1. Comunque molti hanno paragonato, hanno accostato Moggi Juve al Brasile ieri sera, perché ormai c'è questo, no, c'è questa, questa come, come, ha detto, come ha detto Parenzo prima? No, lui? No, tu hai detto che è diventato il nome di Moggi, è diventato... No, ho detto poco fa che è come nel disegno dei sinonimi, come hai detto tu, cioè sinonimo di un furbetto. Ad esempio, un altro giorno io stavo passando al semaforo, sono passato con Rosso e uno mi ha detto, oh, ma che fai, ma che sei, Moggi? Ma va, adesso sì, stai esagerando, come al solito. Te li dovevi dire, ma che tu sei un coglione, esatto, bravo, dovevi dire così, ma che sei un imbecille. Ho riportato una notizia, no, ma perché, scusami Luciano, perché non sei stato pronto nella risposta, ma io, piacere Parenzo, io voglio capire una cosa, ma Luciano, perché hai detto prima, poi vedremo la nazionale che praticamente ho fatto io nel 2006 e questa qua? No, nel 2006 c'era la squadra della Juventus, praticamente erano 9 giocatori. Anche questa c'è molta Juventus. Questo, sì, ma erano giocatori diversi. Erano, adesso cioè, ci sono due campioni, ha detto Chiellini, Pippo e Buffon. Sì. Non ci sono dubbi che è così. Ma poi la squadra è composta da 11 giocatori, prima panchina. Dove va a finire l'Italia secondo te? Fammi una previsione. Io mi auguro che vada a finire bene, e magari mi auguro di sbagliarmi. Su questo però, non c'è dubbio. Però l'impressione mia, intanto cominciamo a battere l'Inghilterra, perché se non battiamo l'Inghilterra potremmo uscire. Io mi auguro fortemente per l'Italia che questa cosa qui avvenga. Vabbè, non sei ottimista, dai, non sei ottimista, mi sembra di capire. La squadra, scusa, è una squadra che gioca con Fluminense e prende 3 gol. Fluminense è una squadra di modesta levatura. Sì. O con Lussemburgo e Parigi, voglio dire. Dove andiamo, dici tu? Non è che li puoi dare... Poi all'interno della squadra Chiellini che dice non abbiamo più la sensazione di essere una densa difesa come in pratica, e questo vuol significare c'è qualcosa che non funziona. Amici miei, le zanzare di casa. Questo è sempre il grandissimo Paolo Ruffini, ospite l'altro giorno alla Zanzara, il quale non ha chiesto scusa a Sofia Loren dopo averla definita una topa meravigliosa, e non si capisce perché doveva chiedere scusa. Caro Parenzo, questa mattina il Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, prima pagina. Sei fissato, tu da quando ti hanno regalato quella sciarpa lì? Puzzolente. Beh, sì. No, che puzzolente, sei impazzito. Io sono geloso, per me puzzolente. Ma che puzzolente, è un odore meraviglioso. Ho detto puzzolente. No, da quando sei ormai diventato il governatore del Friuli Venezia Giulia. No, ma quale governatore del Friuli? Sempre di questo Friuli, che va benissimo, di Pordenone. No, aspetta. E Pasolini. Messaggero Veneto. Messaggero, non c'entra nulla. Messaggero Veneto. Ma non è ancora lì, signor Moggi? Sì, aspetta. È una brava persona. Torniamo subito con Moggi, Messaggero Veneto, si sta tagliando i capelli peraltro. Messaggero Veneto, edizione di Pordenone. Prima pagina, la Sacilese che stregò Cruciani. Ti giuro, prima pagina, Parenzo, è una cosa incredibile. Veramente. Ti giuro. Beh, amici giornalisti, Messaggero Veneto. Aspetta. Beh, cari amici. Messaggero Veneto, la Sacilese che stregò Cruciani. Una dama con la sciarpa strega Cruciani. La misteriosa ammiratrice consegna il capo al conduttore della Zanzara. E sui social scoppia la bagarre. Chi è quella donna? Il giornalista è bellissima. Sì, questo è vero che l'ho detto. Però poi metto una foto di una signorina che si è presentata, lei che si chiama Pasqualina, non so come, Pasqualina Papa. Ma non è vero niente, cioè è tutto falso. Allora, cari amici del Messaggero Veneto, non è questa qua. Abbandonate la ricerca perché siete bravissime persone, probabilmente, anzi sicuramente bravissimi giornalisti, però state sbagliando direzione. Non è siete, non dico pessimi, ma scarsi investigatori. scarsissimi. Siamo al top, ragazzi. E comunque la sciarpa ancora ce l'ho, l'ho lasciatela sul motorino adesso. Me la sono scordata sul motorino perché faceva un po' caldo. Speriamo che l'abbia preso qualche mio amico Rom. Ed è ancora, ed è ancora molto profumata. Siamo con Luciano Moggi che si sta tagliando i capelli. Ma scusa, ma che te tagli i capelli, Luciano, che no, non ce l'hai? No, ma perché io quando io quando è una settimana che non me li faccio, mi vanno tutti nei miei occhi. Ma negli occhi dove? Che non ce l'hai i capelli? No, lo dici te. Ma come lo dici te? Ascolta, dimmi. Volevo dirti, ma chi è la bella topa? Perché non ho capito bene, ha fatto una confusione. No, la bella topa è cosa? La bella topa è Sofia Loren, l'altro giorno. È vero? Ma come no? Non è vero, vedi l'accento toscano che ritorna. Ma certo, hai ragione tu, è verissimo. Cioè, anche se ha la sua età, insomma, ancora Lucia, ancora no? No? O sbaglio? No, sì. Ma cosa glielo chiedi comunque, a lui che ormai ha messo in archivio quella pratica? Ma chi te l'ha detto che ha messo? Che non gli piace? Ma che non gli piacciono le donne? A Luciano Moggi gli piacciono le donne. Pensate a quella lì, dice Barretto. Vabbè, hai messo in Luciano, sei sposato, da tanti anni. Ha detto che hai messo il nodo, ha detto sì, David. Sì, vabbè, è vero che sei sposato da un sacco di anni, Lucia. Però mettere a nodo è un altro discorso. No. Vabbè, ogni tanto qualche scappatella, dai, su. Qualche scappatella la fai pure te, dai. No, su. Io no, per quello no, perché io sono una persona seria. Senti, ma perché stavi sull'aereo insieme a Immobile? Anche qui la gente scatenata ha detto che vergogna in aereo a brindare insieme a Immobile quando ha firmato il contratto per il Borussia Dortmund. Oh, magari ragazzi, ma che palle? Ma che è un delinquente? Ma che è un criminale che deve essere, che andare? Ascolta, io vado dove te pare. Mi pare e piace, no? Nel senso che non entro nel merito di alcune cose nelle quali non dovrei entrare, siccome mi avevano invitato i dirigenti del Borussia Dortmund perché mi hanno omaggiato di una maglia con il numero 10 dove c'è scritto Luciano Moggi, perché addirittura perché io ho, diciamo che sono sempre stato amico di quei dirigenti ai quali ho dato tantissimi giocatori della Juventus. E allora hai accompagnato tuo figlio, eccetera. Con l'occasione sono andato lì. Se poi Vernazza fa lo stupidino e dice chi ha fatto lo stupidino? Vernazza, il solito Vernazzino. Senti una cosa, ma chi hai votato alle europee? Non me lo ricordo. Ma che non te ricordi? Dai, Lucia, su. Giuro che non me lo ricordo. Ma se sei andato lì, non te lo ricordo. 15 giorni fa è successo, nemmeno, non te lo ricordi. Dai. Non me lo ricordo. Renzi, hai votato Renzi, dai. Pure te. Io non dico chi voto, però ho le mie simpatie. Però ora come ora non me lo ricordo, c'erano un sacco di nomi. Ma dai, su. Lo giuro. Ma dove hai votato poi? Dove hai votato? A Torino avrei votato Renzi. Ma Renzi ti piace a te o no? Sì, a me mi piace. Ti piace? Mi piacerebbe più se fosse Renza anziché Renzi. Cioè, ma non ti piace a quel punto di vista. Voglio dire, ti piace come politico, dico, no? No, mi piace perché è dinamico. Era in Cina e in Giappone, oggi è già. Vabbè, hai votato Renzi. Non poi il Moggi della politica, no? Ma perché vi devo dire perché ho votato? Perché così? Perché non hai niente da nascondere. Se non è interessante, tutt'altro. Tutt'altro da nascondere. E allora diciamo, hai votato Renzi. Per esempio, ti ho detto mi sto facendo capelli e tu mi contesti che non ce l'ho. Ma che ne sai? Diciamo, Luciano, non sei noto per essere un capellone, ecco, no, diciamo la verità. Io quando non me ne faccio spesso, come adesso, è un casino perché mi vanno tutti negli occhi. Senti una cosa, ma assomiglia un po' Renzi, assomiglia un po' al Berlusconi dei tempi migliori? Quello dinamico, rapido, veloce, veloce è il modo di dire, però... O no? Ma facciamo anche politica stasera? Noi sempre politica parliamo, sempre. Certo, allora se mi dici se assomiglia io dico di sì. Questo ti sto chiedendo, assomiglia, ti piace anche per questo, diciamo la verità, che è un po' un nuovo Berlusconi, sembra. Ma mi sembra che abbia tutta la volontà di far bene, poi dopo che ci riesca non lo so, però la volontà ce l'ha. Senti, ma in tribunale ce lo porti davvero Pippo Baudo in tribunale? No. mi dispiace per Pippo perché ha fatto una figura, si è pure scusato con l'imitatore poi. Lo so, infatti, infatti. Vabbè, lo porti in tribunale o no? Vediamo. No. Senti, una domanda finale, conclusiva. Però vedi Giuseppe, il problema sai qual è? Qual è? Tu adesso hai parlato scherzando del direttore di Rai 1, no? Sì. È proprio la gente, praticamente dovrebbe leggere la motivazione del processo, ma quando si dice che è un campionato regolare, che le partite non sono alterate. No, ma io su questo, guarda, al di là del merito, sulla frase del direttore di Rai 1, sono d'accordo con te. Ti abbraccio, ciao Luciano, ciao. Ragazzi, vogliamo parlare dell'incredibile situazione che si è creata a Venezia, dove il sindaco Orsoni, che adesso si è dimesso, fino a 5 minuti prima diceva che non si voleva dimettere. Sì. Devo dire che su questa cosa avevi ragione tu, Parenzo. Devo ammettere che avevi ragione. Allora, Orsoni, devo ammettere che su questa cosa di Orsoni ieri, con quel ragionamento contorto che facevi, comunque avevi ragione. Non ho capito. Avevi ragione. C'era un contrasto, si è creato un contrasto tra il Partito Democratico e il sindaco di Venezia, perché quando uno dice, come Orsoni ha detto davanti ai magistrati, i soldi mi hanno detto loro di cercarli al consorzio. Però lo scandalo vero, che io non mi tolgo dalla testa, al di là del fatto delle dimissioni di Orsoni, che dopo ci ha ripensato, si è dimesso perché evidentemente il PD gli avrebbe tolto la fiducia, esatto, o quello che è, la cosa vergognosa di questa vicenda, veramente da mettere, cioè da incazzarsi come bestie, da incazzarsi come animali, che questi, i soldi che sono stati dati, 560.000 euro o giù di lì, per la campagna elettorale di Orsoni, non sono soldi di aziende private, che pure sarebbe stata una cosa grave se le cose non vengono fatte a regola d'arte, no? Secondo le regole. Però. Ma a chi li dai i soldi al consorzio, secondo te? Noi, sono soldi nostri, cioè sono soldi dello Stato, dati per l'opera a questo consorzio Nuova Venezia. Sono anche le aziende private, soldi che sono tornano dentro il consorzio. Sì, però, ma il consorzio Nuova Venezia è un consorzio che viene finanziato dallo Stato con soldi. In parte anche. No, sì. In gran non parte. Comunque parte, la comunicazione. Queste cose sicuramente sì, le attività di questo consorzio sì, sono soldi dello Stato che tornano ai partiti, che vanno ai partiti sotto altre forme, cioè sono soldi nostri che vengono dati per la campagna elettorale del signor Orsoni, e lui dice non lo so, mi hanno dato i soldi, le bustarelle gliel'hanno date in mano, no, io non ho preso niente, però non posso escludere che qualche cosa sia stata lasciata da qualche parte, e i magistrati hanno accettato quella verità. Ma tu ti rendi sai conto cosa succederà adesso? Ti do quello succederà tra un po' e mi ridirai fammi hai sentire ragione. Orsoni, però fammi sentire Orsoni, che è divertente. Orsoni, senti, Orsoni, prima ti dice si dimette. Anzi, prima dice organizzatore della mia campagna è stato il Partito Democratico ieri. Ieri organizzatore della mia campagna è stato il Partito Democratico. La mia campagna elettorale non è stata da me gestita. Il maggior organizzatore della campagna elettorale è stato il Partito Democratico. Non mi dimetto. Si dimette? No. Oggi mi dimetto e revoco giunta. È perciò che ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di sindaco. Ho provveduto, questo lo comunico al presidente. Dai, su, una buffonata. Beh, lui sta dimostrando coerenza però, eh. Sì, cioè lui adesso vedrai ragazzi, cosa fa. Ragazzi, ma tu ti rendi conto che i giudici hanno creduto al fatto, per questo l'hanno scarcerato? In base a riscontri. In base al fatto che ma hanno scritto un'altra cosa, in base al fatto che è una brava persona. Ti giuro. Vedrai cosa succederà. Tra persone di mondo, questi affari si regolano con comportamenti concludenti e discreti, senza formule sacramentali e atteggiamenti grossolani. È plausibile che la consegna a domicilio sia stata la semplice collocazione di una busta anodina in una stanza qualunque, con vereconda indifferenza e reciproche cavalleresche cortesie. Escludono dunque la possibilità di una frusciante mazzetta. Ritengono poco plausibile che un candidato del prestigio di Orsoni potesse raccattare fondi con iniziative personali diffuse e petulanti. Cioè, così, siccome dicono un personaggio della statura di Orsoni non può raccattare... Ma non lo so, ma comunque hanno scritto questo. Cioè, loro danno un giudizio sulla figura di Orsone, dicono: beh, però non può avere preso le mazzette così in mano. Sicuramente l'hanno lasciate da una parte e poi qualcun altro le ha prese. No, lui ha ammesso di aver ricevuto un finanziamento da parte del Consorzio Nuova Venezia. Vabbè, ovviamente. Titoli del TG3, dai, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il Consiglio dei Ministri affida al magistrato Raffaele Cantone la vigilanza sugli appalti pubblici. L'autorità anticorruzione potrà sanzionare le imprese. La pubblica amministrazione cambia volto. Addio Travè, con la riforma arrivano mobilità, part-time, dirigenti a tempo e tagli alle spese. Dopo lo scontro con i dissidenti del Senato, Renzi si prepara a un'attesa assemblea nazionale del PD. La linea non cambia. Inammissibile frenare le riforme. Il sondaggio online fra i 5 Stelle sceglie l'alleanza con l'euroscettico Farage, ma la base insorge e continua la lite su Pizzarotti. È venuto meno il rapporto con la politica. Dopo il pressing del PD si dimette il sindaco di Venezia Orsoni, coinvolto nell'inchiesta Mose. Il movimento islamico sunnita lancia la riconquista di Baghdad. Gli sciiti pronti alla guerra santa. Obama, niente truppe, ma vigiliamo. Polemiche per l'arbitro in campo, fischi e le autorità sugli spalti mentre proseguono le proteste e domani sera esordio dell'Italia. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Cari amici di Radio Padania, cari amici nostri di Radio Padania, che ne dite di questa uscita? Di questa uscita del vostro segretario, del vostro segretario, del vostro leader massimo, Matteo Salvini, il quale ha detto di tifare Italia. Cominciate a sventolare il tricolore, amici miei! Stavolta basta! Basta leoni di San Marco, caro Parenzo, basta simboli padani! Finito! Basta ampolle! Basta Dio Po! Finito! Basta ampolle, cari amici! Tirate fuori il tricolore! Tirate fuori il tricolore, dovete dire forza azzurri, forza Italia! Salvini, io non me lo posso dimenticare questa cosa qua. Salvini. Il calcio comincia e finisce con Milan. Detto questo, io sono un buon politico perché perdo i voti degli altri tifosi. Però la nazionale non mi ha mai entusiasmato per neanche. Per cui non ti farai Italia, questo, non ti farai Italia. Ma no, vabbè, però dai, meglio su. L'Italia degli di chi? Altri. Ti farò Italia, anche se il cuore me lo scalda a Milan. Di Roma fuori. Cominciate a tirare fuori. Beh, meglio Salvini di Travaglio, che puntualmente dice quest'anno, due anni fa, che fa il tifo contro l'Italia. Questa cosa la trovo insopportabile. Beh, che significa fare il tifo contro l'Italia? Perché uno dovrebbe fare il tifo contro l'Italia? Per quale motivo al mondo? Ti può stare su, può dire io sono indifferente, non me ne frega niente del calcio. A te per esempio non te ne frega nulla, no? Beh, cioè, però per le... no, però ma non guardi Italia, mondiali ovviamente. Non guardi, sì, ma non è che ti... anche ieri sera mi sono visto Brasile Croazia, Brasile Croazia trifanti io. Beh, li guardo i mondiali tifando per il Brasile. Vabbè. Perché ricordo la Croazia del signor Ante Pavelic. Ah, la Croazia, la ricordo, la Croazia dei fascisti, il signor Ante Pavelic. E vabbè, quindi Brasile avanti tutta. Vabbè, addio Croazia, quel rigore c'era, bravo l'arbitro. Ma Croazia, tu sei malato, tu sei... addio Ante Pavelic. Ma tu sei, ricordi dei personaggi che la gente normale, quelli che stanno sugli autobus, quelli che stanno in taxi, ma la gente adesso andrà su Google e cercherà. Sono dei fascisti, sono dei fascisti. Ecco, tu l'avresti intervistato, signor Ante. No, sì, no, sì. No. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Ecco, ottimo. Tu avresti detto: abbiamo con noi il signor Ante Pavelic. Signor Pavelic, beh, certo, buongiorno. È normale. Signor Pavelic, mamma, uno schifoso essere. Vabbè, comunque, tu su Radio Padania qualche giorno fa hai pronunciato queste frasi. Quella ultima merda di là, digli che vada in un porcile che è il suo posto. Ma che? Comunque, quello vive a nostre spese, vive meglio di te e me messi insieme, lo sai. Comunque quell'altro stronzo che ha detto che sono pronti per le nostre donne, posso anche capirlo, perché le loro sono talmente brutte che le coprono con il chador e con i burka. Andate a pigliarvelo nel sedere, pezzi di merda di là. E di cui questo è un gentile signore che è intervenuto su Radio Padania. E io segnalerei il nome di questo amico e di questa radio agli amici di Al Qaeda, che spesso dai loro paesi si collegano alla rete, gli amici di Al Qaeda, e così sentono quello che dicono a Radio Padania. Ovviamente sto scherzando. Beh, però insomma, questi sono è una bestemmia. Allora, I signori amici, li chiamo io, di Radio Padania, cosa hanno scritto? Gli amici della Zanzara chiedono aiuto ai terroristi di Al-Qaeda per zittire Radio Padania Libera. Ragazzi, siamo rimasti davvero l'unica voce contro il pensiero unico. Devo dire che hai come dire, ti è partita la frizione. Ma come sì, si dice, era una battuta. Ti è partita la frizione, dai, ti è partita la frizione. Queste persone devono, la mia era una battuta. Vabbè, loro basta, quelle, basta. Un altro che mi fa incazzare. Devono chiedere scusa perché hanno bestemmiato. Va bene, ma l'ascoltatore deve chiedere scusa, che c'entra? Certo, e lui non l'ha zittito, non ha chiuso la telefonata, ha consentito una bestemmia. Però ti vorrei leggere, ti vorrei leggere l'articolo che gli amici del Messaggero Veneto, basta con sta amici, stiamo utilizzando troppo sta parola. Del Messaggero Veneto mi hanno dedicato. No, ma è incredibile. No, basta però, dai, su. Ma io non lo so, ma non esiste neanche questa qui, magari. No, esiste, esiste. È come allora, l'amico immaginario di Shining, dai. No, esiste, sì, esiste, esiste, esiste. No, senti, ma che hanno scritto delle cose incredibili. Sul web impazza il gossip, su Twitter blogger nazionale, personaggi forse sacilesi, cioè di Sacile, nascosti da nomi improbabili, spettegolano sulla ragazza con la sciarpa. Una che scrive, lo ammetto, sono io, una tale Pasqualina Papa, mai conosciuta, mai vista in vita mia. È tutto vero? Il gossip corre più veloce delle onde dell'Ivenza, che è il fiume che c'è lì. Tu lo conosci, l'Ivenza, Parenzo? Di persona non lo bellissimo posto, è simpatico. Molto bello, sì. No, ma l'Ivenza è un fiume, scusi, coglione. Non ho capito. Sei pazzo. Comunque, no, perché qualcuno me lo chiede, ma... Sul Messaggero Veneto però oggi c'è un'altra notizia nella homepage. Catturato l'orso del Gran Monte. Sto catturato un orso, questo dicono. Vabbè. Vabbè. Ma ti ha chiamato questa però? Eh? Ti ha telefonato? Ma che telefonato? Qui? Ma lascia perdere. C'è avuto questi appelli. Comunque, sai, devo dire una cosa: la bellezza non conta nulla, perché ci sono altre cose che contano. Ma ti assicuro non, veramente non conta niente, perché poi alla fine passa in secondo piano. Ma è la più bella che abbia visto negli ultimi, credo, 10 anni. Dieci anni. Ma questa qui, 10 anni. Cioè, ma non so se ascolta, ma che ne so io. Non conta nulla la bellezza, ma è la più bella che ho visto negli ultimi 10 anni. E non ti ha contato dopo tutto sto giornali che parlano, ma non di è, non sto facendo nessun cinema, dai. È ancora in casa, questo era Marcellone, era Marcellone dell'Udine, ancora a casa, sì. Che nostalgia però, David, che nostalgia, devo dirti la verità, che nostalgia. Marcellone, no, dell'Utri, devo dirti una cosa. Da Marcellone dell'Utri che veniva in trasmissione a dare giudizi su Berlusconi, su Renzi, sul governo, dai, era un'altra cosa, dai. Nostalgia, un altro mondo. Beh, senza io provo nostalgia, che devo fare? Provo nostalgia. La trasmissione, sempre la visione. Ma questo è il fratello però, questo è il fratello. Cioè, questo è il fratello. Però devo dire, hai visto il video? Ma vogliamo sostituire, che ha fatto, che quando non è tornato? Visto. Sì, sì, ho visto il video sull'aereo. Video mi sull'aereo ha un po' impressionato i passeggeri, sì, sì, che si alzavano e gli facevano le foto col telefonino come fosse una bestia, e questo mi ha un po' impressionato umanamente. Vabbè, che diciamo, c'entra, facevano le foto col telefonino, l'avrebbero fatte comunque, però è normale, è uno che è stato in Libano, viene stradato in Italia, come ti viene? Gente... no, questo è vergognoso, io non lo farei perché lo conosco, ecco. È ma come no, ma quelli non è che quello. Si fermano sul ciglio della strada quando c'è un incidente, no? Bravissimo. Quando c'è un incidente. Stessa cosa, a me mi ha impressionato. C'è quest'uomo che è stato arrestato, portato in manette, sì, sull'aereo. Sì. Vabbè, ma gli imbecilli ci sono volo, ovunque, non è un aereo comune, no? È un aereo di linea. Gli imbecilli ci sono ovunque, ragazzi. E ti metti lì a fare la foto come fossi una bestia. La foto del ritorno, la foto del ritorno di Dell'Utri, un leone in gabbia, che roba è? Ragazzi, però la realtà è questa. L'estradizione di Dell'Utri, che oggi passa in secondo piano, diciamo la verità, anche perché Berlusconi conta molto meno, diventa quasi irrilevante il signor Berlusconi e le vicende di Forza Italia, diventa quasi irrilevante. A proposito di Berlusconi, caro Parenzo, non so se hai notato, sicuramente no, che c'è una fantastica, meravigliosa intervista, ma devo dire meravigliosa intervista, sul Corriere del Mezzogiorno alla signora Francesca Pascale. Signora Francesca Pascale. Sì, ho visto cosa dice. No, cosa dice? No, cosa dice? Nel cosa dice? Che sta con un uomo divorziato, quella sì, intendi? No, ma non è quello il clou della cosa. Beh, no, quello è bello, dove si, sì, si, sì, si, no, se ma... la prende con le gerarchie, diciamo, con le Vaticane, con le gerarchie, sì, ecclesiastiche. Ti assicuro che c'è dell'altro, caro David, c'è dell'altro. Adesso quando recupero la cosa che mi sono scritto qua, che no, intanto facciamo intervenire Franco da Brescia. Non l'hai letta. Franco da Brescia, no, l'ho letta benissimo. Franco da Brescia. Mamma. Franco, su, forza, dai. Sì. Buonasera. No, volevo solo far notare a Parenzo per quanto riguarda la questione Orsoni a Venezia. Sì. Che è veramente una vergogna che i giudici lo lasciano libero, nel senso che a questo punto. No, attenzione, no, io non ho detto calmo. Che è una vergogna. Non ho detto che è una vergogna, ho detto che sicuramente nei confronti di altre persone che hanno, diciamo, una faccia magari più cattiva, una faccia sporca, una faccia così, secondo me i giudici sarebbero comportati in un altro modo. Ho questa idea. Esatto, ma il giudice non può liberare, cioè qui c'è una colpa grandissima da parte della giustizia italiana. Hanno liberato. Sì, ma spenga la radio, però, Franco, che c'è un ritorno, su, dai. Li ha lasciati su un tavolo, poi è passato qualcuno, li ha presi, non si sa. Cioè, ma questo vale per tutti, allora. No, ma io sono d'accordo con lei, dopodiché io non auguro la galera a nessuno. Detto questo, per corruzione, e non è il caso di Orsoni, per corruzione in Italia ci sono pochissime persone in galera, l'ha detto l'altro giorno anche Cantone. Io non sono un manettaro, però è un dato di fatto, si contano, ha detto Cantone, sulle dita di una mano le persone in galera, in particolare i colletti bianchi, sulle dita di una mano le persone in galera per corruzione. Questo vorrà dire qualcosa rispetto ad altri paesi o no? Cioè, vorrà dire qualcosa o no? Vorrà dire qualcosa. Io non sono uno di quelli che vuole tutti in galera come vorrebbe qualcun altro, e buttando la chiave solo se uno è indagato. Però, no? Perché? Perché Galan lo arresteranno quando verrà dato il via? Vabbè, sono altri reati, dai, su, sono altri reati, non scherziamo. Cosa? Se io li no, sono altri reati, quella è corruzione, quella è sono altri. Dopodiché, che sia stato utilizzato, secondo me, da quello che leggo oggi sui giornali, che sia. Li fanno passare nel partito i soldi, e così poi non è più corruzione. No, ma quello è un reato, è finanziamento. Se uno prende i soldi, li spende per la campagna elettorale. Il finanziamento, la differenza è quella: i giudici hanno valutato il finanziamento, non la corruzione. Ma è la stessa cosa. Sì, ma i soldi sono andati. Certo che i soldi sono andati. Non a me personalmente, non cambia, perché se poi il partito me li dà, è la stessa cosa. Solamente che è più furbo farli passare dal partito. Va bene, grazie Franco, grazie. Claudio Livorno, buonasera Claudio. Oh, buonasera Cruciani. Senti, a me mi è toccato scappare da Livorno come Apparenzo, mi è toccato scappare da Padova. Perché? Per via del sindaco. Cioè, quale sindaco? Questo si è appena insediato, quale? Quello prima, Cosimi, quale? Ma che Cosimi, Nogarin, che mi anche di Lega, perché c'è un nome... questo di adesso, dici tu, già ma sei scappato? Sì, ma lo sai dove sono ora? Ho chiesto asilo politico a Pisa. Vabbè, ma figuriamoci, dai. Voglio dire soltanto una cosa, perché non voglio farla tanto lunga. Ma la prima cosa che lui ha buttato fuori è stato il discorso dei mezzi pubblici gratis. Ma a Livorno sono già gratis. Ma a Livorno non paga mica nessuno. Perché non paga nessuno? Perché non paga nessuno? Non paga nessuno, perché tra extracomunitari, rom, zingari, vecchi bavosi che vanno su e giù perché c'è un po' d'aria condizionata dentro l'autobus. Ma non paga nessuno. Quindi, ma non credo. Perché non ti piace questo sindaco? Si è appena insediato. Fallo un po' vivere. Perché mi sa tanto di rincoglionito, non c'ha una squadra, non ha preparato nulla. Lui è arrivato impreparato come Grillo, è arrivato impreparato quando ha vinto. Vabbè, aspetta che inizia a governare. Però aspetta, no? La prima cazzata, vai lì e dici: oh, amico mio, ma di che stiamo parlando? Senti, guarda, io c'ho un sacco di amici che hanno buttato lì il voto, e lo so, portuali, figli di portuali, che non possono avere più le cose che avevano una volta. Non esiste. Vabbè, ma quando uno, Claudio, quando uno vince le elezioni, di solito i primi discorsi che si fanno sono tutte parole: trasformeremo la città, una città affossata, una città distrutta, una città umiliata da anni di amministrazione pessima. Dicono tutti la stessa cosa: cercheremo di risolvere i gravi problemi che ha questa città, il lavoro, che poi i sindaci non possono fare una mazza sul lavoro. Dicono tutti le stesse cose, tutti. Allora, se questo qua, al di là delle tue ironia comunque riuscita, se questo qua vuole dire vuole mettere gratis i mezzi pubblici, vedremo. Secondo me non trova i soldi per mettere gratis, cioè chi li paga gli autobus? No, i soldi li trova, perché intanto non lo paga nessuno l'autobus da Livorno. Io ci devi venire, prova, poi lo vedi. Senti, dimmi. Poi un'altra cosa velocissima e stacco. Per quello che riguarda Mare Nostrum, ma perché non li andiamo a prendere direttamente a Tripoli sulle banchine? Così i soldi, invece che dare agli scafisti, ce li danno a noi. Bravo. Io sono d'accordo con te. Perché non facciamo il business direttamente noi, Parenzo? Li portiamo. È inutile, perché loro pagano, questi li portano a metà strada. e poi il resto si deve fare tutto noi. Allora prendiamole direttamente in banchina e ci danno 2000 dollari a testa. Ah, che stupidaggine! Ha ragione lui, ha ragione lui. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Giambattista, provincia di Padova. Buonasera, buonasera, dica. Buonasera, buonasera. Innanzitutto siete due simpaticissimi fustigatori e contestatori. Però da quando vi ho visto in televisione devo dire che Giuseppe... Quando ci hai visto in televisione? Perché siamo divisi in televisione ormai una da... Una volta solo ci siete stati, avete fatto una trasmissione e poi vi hanno subito... Sospesi. Con mio dispiacere, con ma mio con dispiacere. Io però sospesa come la cellula dormiente. No, però la cosa pazzesca, Valerio, io non riesco a capirlo. Quella trasmissione ebbe un ascolto, diciamo, basso più o meno, no? Però, 2, però io, ogni persona che incontro per strada dice, io ho visto quella puntata, una puntata meravigliosa. Ma che cazzo avete visto quella sera? O le rilevazioni sono una puttanata, sono tutte sbagliate, sono una farsa, oppure è incredibile. Io ogni persona che incontro per strada dice, ah, una cosa pazzesca, meravigliosa. Beh, ho capito, però no, ma io volevo dire che incredibile. Ma non succede anche a te? Ma sì, no, mi fermo ancora per quella roba, cioè. Sì, mi fermo per quella roba. Dopodiché poi uno va a vedere 2,67, 2,70, 2,79, quasi, non mi ricordo. Il 3. Quasi il 3, va benissimo. Adesso non stiamo a discutere sui numeri, sì, però sì. Radio Belva sembra che l'abbia vista tutta Italia, cioè, no? È diventato poi un po' un caso, diciamo, nei no giorni, d'accordo, però nei giorni adesso questo ascoltatore sta dicendo vi ho visto in televisione quel giorno, una cosa meravigliosa, stupenda, cioè, mi sono divertito tantissimo, ma io pure mi sono divertito. Dopodiché dov'è tutta sta gente che ha visto sta Radio Belva? Non è vero, ci state dicendo una puttanata, non è così. No io vi ho visti e vabbè, vi ho visti anche battito. Vabbè, allora, e comunque allora... a Giuseppe non so se posso dare del tuo, vai, dammi del tuo, dammi del tuo, non c'è problema, esatto. Vi facevo più giovane, invece a Parenzo lo facevo un attimino più carino. A Parenzo, vabbè, che Parenzo, fare che una Parenzo non sia un adone, quello, insomma, è una cosa ultranota questa qua, che non sia proprio un adone così, non è che sia una cosa strana. Volevo fare una domanda, è vaccinato per la tubercolosi Parenzo? Io sì, in famiglia sua? Certo, io sì, perché sono un medico e quando eravamo studenti ci vaccinavano obbligatoriamente, perché io purtroppo ho tanti anni molto ed eravamo giovani, c'era ancora la tubercolosi. Allora stiamo sereni anche per Parenzo, perché ho sentito l'intervento ieri sera di una collega, credo, perché purtroppo è un medico, la radio come lei, caso, sì, di certo, un medico, la quale diceva che gli extracomunitari che vengono qua non è vero che portano le malattie. Vabbè, è la sua opinione, la sua esperienza, l'esperienza di questa signora. Allora, bravissimo. Allora io invece volevo dire che a Padova, che voi parlate spesso di Padova solo perché c'è un nuovo sindaco che è della no, veramente Liga, perché Parenzo è di Padova anche per questo. Beh, allora veloce, forza. Di Padova a Parenzo, non lo sapevo, avrei voglia allora di incontrarlo e di scambiare quattro chiacchiere con Parenzo. Vabbè, allora se Parenzo è di Padova dovrebbe sapere che c'è stata un impennata della tubercolosi della Padova a Padova dovuto alla presenza degli extracomunitari. Sì, infatti sono le file, cioè la fila davanti all'ospedale per la tubercolosi a Padova. No, non ci scherzi su questa comunque, cosa. Comunque, secondo lei c'è Bitonci e tutto andrà benissimo, vedrà il signor Bitonci. No, non ho detto questo. Vabbè, secondo lei c'è una situazione pericolosa portata, secondo lei, dagli extracomunitari. Vabbè, Giambattista, verificheremo, che le devo dire. Chi ti ho portato ancora una volta con noi? Chi ti ho portato? Il professor Passigli. No, ma che c'entra il professor Passigli? Bravissimo, professor Passigli. Bisognerebbe sentirlo. Carlo Giovanardi è con noi. Buonasera. Sì, buonasera. Come andiamo? Carlo Giovanardi, ammiratore del cardinale Giuseppe Mezzofanti. Allora, aspettiamo, partiamo subito alti qui. Cardinale Mezzofanti, com'è di nome, come fa? Giuseppe Mezzofanti, fine 700, inizio 800, parlava 38 lingue principali. Mezzofanti. Però 38 lingue. Ma ne conosceva altre 20, riusciva a leggerne altre 20. Ma perché ci sta citando? Perché lei sta dicendo? Aramaico. Sì, perché sta dicendo che è un ammiratore del cardinale Giuseppe Mezzofanti, uomo del 700-800? Ma perché c'è chi pensa che ci sia sempre qualcosa di nuovo sotto il sole? Sì. Invece no. Stava parlando in questi giorni qualche polemica su che cosa? Beh, su una roba si chiama rap. Ah, il rap, c'è qualche collegamento con il rap che lei ha fatto dopo la puntata di anno 1? Giuseppe Mezzofanti era un grande amante di una cosa che a Modena e a Bologna è 300 anni che fanno le zirondelle. Cioè? Le zirondelle sono composizioni dialettali in versi tonali con rima baciata, cioè sono il rap. Sì. Però ha fatto 300 anni. Ah, lei sta dicendo altro che Fedez, J-Ax, eccetera. Qui c'erano i cardinali che erano meglio dei rapper, dice lei. Senta qua. E sai manche su una dur, tu li fuori al macaclur e piccioli la padella, ti che dai la zerudela. Ed insomma, tutti ancù, sa da fare a chi può più. Che mas, questo qui, che mas fant le montagne sela, che dà la zerudela. Questo l'ha scritto il cardinale, che vuol dire che oltre alle 38 lingue ma che vuol dire poi? Traduca un attimo. Se mancano i suonatori, tirate fuori gli schiaccianocciole, battetelo sulla padella, ti che dai la zirondella. E insomma, tutti oggi dobbiamo fare il più possibile perché Mezzofanti è montato in sella e ti che dai la zirondella. Diceva anche le signore, muda bene anche la stanela, cioè? Cambiatevi anche la gonna quando ci sono le cerimonie, naturalmente. Sì, certo. Perché si devono cambiare la gonna? Beh, per perché c'erano le cerimonie, perché era una cosa di mettersi belli. Beh, muda bene anche la stanela. No, ma questo lo dico perché... Però lei lo dice ma perché... Ma vedi, questo è bellissimo. Cioè, Giovanardi che fa, che si occupa di questo, è meraviglioso. No, ma perché Giovanardi vuole dire che queste cose... Perché Giovanardi, che è uomo, diciamo, di altri tempi, diciamo, la verità. Non è uomo, diciamo, dei tempi moderni, della questi contemporaneità. Qua, dei giovani, anche se è stato invitato a una trasmissione dove c'erano molti giovani, quella della signora Innocenzi, no? Però non è uomo... I rap per lui, sì, i rapper, sì, sono personaggi, però c'erano i cardinali che facevano, lui dice, più o meno la stessa cosa. No, come... assolutamente sì, quindi chi dice sono modernissimo, perché adesso i rap fanno una cosa, sono arrivati con 300 anni di ritardo e se grandi personaggi che parlavano 38 lingue si sono scesi a fare così, devo fare anche Giovanardi, no? Adesso parleremo fra poco del suo rap, fra qualche minuto, però volevo chiedere subito una cosa a Giovanardi. Ci siamo occupati in questi giorni di una situazione molto particolare che è avvenuta nei suoi luoghi d'origine, vicino a Modena, esattamente a Bologna, dove una coppia, erano prima uomo e donna, attenzione, uomo e donna. Questo qua, che era uomo, si chiamava Alessandro, lo dico in maniera cruda, Giovanardi, a un certo punto si è fatto tagliare l'uccello, cioè si è fatto proprio tagliare, cioè ha avuto un'operazione, 10 operazioni, eccetera, eccetera. Vogliono rimanere sposati, cioè d'accordo con la moglie, adesso sono donna e donna, però restano formalmente sposati. Secondo la legge italiana pare di no, cioè il matrimonio decade, il matrimonio finisce. Loro invece vogliono fare una battaglia, secondo la Chiesa addirittura rimane in matrimonio, perché la Chiesa non riconosce il cambio di sesso, diciamola così. Secondo la Chiesa no, non è così. Allora, frate cose, figlia o figlio di un mio amico, siamo di finale Emilia, quindi conosco benissimo la situazione, addirittura. E loro sono regolarmente sposati in chiesa, in municipio, e secondo il diritto canonico sono ancora marito e moglie, perché il matrimonio è assolutamente valido. Quando si sono sposati erano un uomo e una donna, quindi il matrimonio non è nulla, è un matrimonio valido. E loro ancora oggi per il diritto canonico sono sposati, mentre per il diritto civile hanno chiesto la Cassazione. No, questa è la situazione, lo sappiamo. Però, appunto, hanno chiesto la Cassazione, secondo lei, che il matrimonio che il diritto canonico riconosce. Sì, secondo lei, secondo Giovanardi, questo matrimonio è ancora valido? Oppure, come dicono molte persone, una volta che uno fa una cosa del genere, decide di cambiare sesso? Io capisco dove voi volete arrivare. No, allora, è una domanda. No, è una domanda. Dove volete arrivare? No, un matrimonio fatto fra un uomo e una donna, che originariamente era un uomo e una donna, è valido e continua ad esserlo, anche se uno dei due perde, se uno dei due cambia sesso, cioè il cambio di sesso secondo Giovanardi mantiene il matrimonio, secondo Giovanardi, secondo il diritto canonico. No, l'Italia, il diritto canonico è un'altra cosa, lo Stato allora, italiano. E io sono d'accordo col diritto canonico che dice che quando originariamente si sposano un uomo e una donna, quindi il matrimonio è valido, quello che succede dopo non incide. Non può essere, non c'è una annullamento. Questa il però, matrimonio essendo valido fin dall'inizio, non può essere dichiarato nullo. E per cui lo Stato sbaglia. Ma lo Stato sbaglia perché se si adeguasse al diritto canonico, nel diritto canonico, se si presentano. Adesso questa è l'indissolubilità del matrimonio. Lei pensa che debba essere indissolubile il matrimonio, è contro il divorzio? Se si presentano due uomini e due donne, il prete non li sposa. Sì. Perché lì c'è manca la condizione fondamentale di essere un uomo e una donna. Ma una volta sposati, se poi invece, una volta sposati, quello che accade dopo se il matrimonio è valido fin dall'inizio, ma... per esempio se uno per cause di guerra può essere accaduto, no? Sì. Perde gli attributi virili. Vabbè, quello che c'entra è un'altra cosa. Nel senso non può più creare, non può più procreare e non può più nemmeno fare all'amore, essendo valido all'inizio, sì, non può essere dichiarato nullo. Per cui secondo lei che in questa fattispecie sia più saggio il diritto canonico che lo Stato. Ah, addirittura questa è la rivoluzione di Giovanardi, è questa. Secondo Giovanardi, no, è coerente secondo, con il sistema di pensiero. È coerente. Secondo Giovanardi, Alessandro e pure questo si chiama Alessandro dall'altra, Alessandra. I due Alessandra adesso possono tranquillamente rimanere marito e moglie. Sì, sono marito e moglie. No, per lo Stato italiano dice che è decaduto il matrimonio. Ma sembra Alessandro. Va bene a riconoscere che il matrimonio, essendo stato stipulato originalmente fra un uomo e una donna, come dice la nostra Costituzione e come dice la Corte Costituzionale, rimane valido. Per cui, secondo lei, lo Stato deve accettare questa cosa, il cambio di sesso, e i due possono rimanere sposati. Ma indirettamente lei sta dicendo che un matrimonio tra uomo e tra donna e donna può essere... No. Cioè, no, può essere dicendo esattamente il rovescio. Ma no, nel diritto che canonico, per lui è sempre... un matrimonio fra uomo e donna non può essere celebrato perché manca la condizione. E quindi sto sostenendo. No, d'accordo, adesso, però una perché volta per lui è sempre Alessandro, capito? No, per lei non è sempre Alessandro, ormai certo è diventata Alessandra, sì, questa qua. No? Eh sì. Giovanardi, no, si arrenda. Giovanardi è sempre Alessandro. Vabbè, ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio che lei è diventata Alessandra. È diventata Alessandra, dunque. Civile è Alessandra. Sì, bisogna fare una disquisizione poi antropologica, fisiologica, se è stato un po' uomo, poi è stato un po' donna. Adesso credo che sia una comunque a questo punto delle persone mi scrivono che lei ha preso una botta di caldo, delle persone che sanno benissimo come la pensa lei e che dovrebbe dichiarare secondo quello che lei pensa il matrimonio tra questi due è finito, chiuso. Qualcuno mi scrive lei ha avuto una botta di caldo. Ieri qui da noi alla Zanzara Rocco Siffredi ha detto che Cassano, che prenderebbe subito Cassano per fare film porno, Cassano number one. Senti un po', ma qual è secondo te il calciatore i calciatori italiani che sarebbero più adatti tra quelli convocati da Prandelli per una... Cassano è il numero uno, lui è Totti. Ma si è calmato adesso, Totti non c'è, ma si è calmato Cassano da quando si è sposato? Ma, certo, ma come ti calmi? Quello è un animale che è in te, non è che lo togli così l'animale che è in te. Diciamo che si è dato una compostezza, ma secondo me se vedrai che l'animale esce fuori prima o poi. Lui Cassano è veramente portato. Sei gelosa più di me, scappo sotto al letto, non parlare, non gridare. Vogliamo ricordare a proposito di ormoni, caro Parenzo, quello che ci ha detto ieri il professor Luttwak, il quale era a Tel Aviv e dice che bisogna vado su spiaggia a Tel Aviv. Mattina fa bagno? Faccio bagno su spiaggia a Tel Aviv. Donne molto belle, eh? E dunque prendo pillolina, costretto a prendere un po' pillolina. Pillolina perché vedo donne russe mischiate con donne israeliane. No, però prenditi due pillole contro la pressione sanguigna, perché quando vedi l'effetto di avere immigrazione russa e immigrazione etiopica, e quando le russi si sposano con gli etiopici, vedi queste ragazze sulla spiaggia, c'è da svenire. Io che sono un vecchiaccio. Passando a tutt'altro discorso, vi propongo uno splendido duello tra Maria Teresa Meli, molto renziana, giornalista del Corriere della Sera, e il signor Mineo. Senti la Meli che dice a Mineo, dimettiti, io non capisco questa cosa, mi fa impazzire. Cioè, se l'avesse fatto Berlusconi, se Berlusconi avesse epurato, avesse sostituito delle persone perché la pensavano in maniera diversa, ancorché decisivi in alcune commissioni, sarebbe successo un inferno, nazista, fascista, dittatore, eccetera. Qui c'è un signore come Renzi che quando uno non la pensa come lui, o comunque quando uno va un po' controcorrente, fa in modo che venga sostituito, che venga un po' silenziato, diciamo. No, ma silenziato no, perché poi in realtà queste persone possono parlare. Però la cosa è pazzesca, è successo con Mauro, è successo adesso con, con il signor Mineo. Cioè, non è che la riforma del Senato deve essere per forza come dice Renzi. A parte che secondo me o il Senato è elettivo, riducendo il numero dei senatori, oppure bisogna abolirlo. Le vie di mezzo, quelle tentate da Renzi per mantenere in piedi il Senato, non si capisce per quale motivo. Cioè, un Senato fatto non elettivo, per carità, ma fatto con i sindaci prima, i consiglieri regionali, non si capisce ancora bene come e perché, è una presa in giro, una buffonata. Meli Mineo. riunioni la cattiveria di elezioni, della Melli, va molto oltre la cattiveria di Renzi, assemblee, no, cioè una rottura, una cosa infinita, cioè, e dopodiché uno, se una persona possiamo seria, ripiegare un secondo con Radino, che c'è il break pubblicitario, ma l'80% decide che quella è la cosa, uno prende e si dimette. Vabbè, purtroppo siccome i giornalisti, cioè, non sono informati, bisogna sempre tornare sulle stesse cose. No, no, scusa, Maria Teresa, stai dicendo sciocchezze, perché non abbiamo mai votato, l'hai sentito Bersani, su questa sciocchezza del testo base. Bersani è fede, perché Bersani dice la verità. Poi addirittura sei stato messo in Rai dal Partito Comunista, ti danno le veline, dice l'altro. Voglio chiarire, c'è un'aula per quanto, ma il Senato è un'aula della Camera, le tesi, le veline che vi hanno mandate le abbiamo sentite tutti, ma nessuno ha ricevuto veline. Avete ricevuto questa velina? Allora, malata, non è vero, ricevuto perché velina. In aula non ricevo informo, veline, non sono stata in Rai messa lì dal PC come te, capito? Ah, a me, quindi, messo a me il PC, nessuno, bravo, mi ha mai mandato veline. Brava, mi ha messo il PC. Scusami, mi dispiace, ma facciamo un mestiere diverso. Io poi la uso per segnare Natale. Che lotta, ragazzi. Come lotta, se la Maria Teresa, come lotta. Va bene, andiamo con noi il senatore Carlo Giovanardi. Fra poco riprenderemo quel rap. Voglio capire una cosa. Allora, la sentenza definitiva del professor Giovanardi sulla vicenda che ci ha preso negli ultimi giorni. Cioè dire, questi due signori che vogliono rimanere sposati, nonostante il fatto che uno di loro si sia trasformato da donna, da uomo a donna, cioè queste due donne adesso, queste due donne, secondo Giovanardi, dal punto di vista del matrimonio civile, possono rimanere sposati, sì o no? Sì. Sì, dunque lei è a favore del fatto che lo Stato non cancelli il matrimonio di questi signori? Perché quando si sono sposati erano uomo e donna. Vabbè, questo è d'accordo. E quegli imbecilli e ignoranti che telefonano offendendo, rispondo soltanto... che è sempre sbagliato mettersi a discutere con gli imbecilli e gli ignoranti. Ma perché ti portano al loro livello e lì sono molto più esperti di te. Ma Giovanardi, su questo, chi sono, sai, Giovanardi, chi sarebbero? Giovanardi, scusi, no, che... avete detto che c'è gente che già che telefono ululando, non ragionando. Sì. Il diritto canonico non l'ho inventato io, è una cosa seria. Vabbè, certo. Il diritto civile è una cosa altrettanto vabbè, seria. Dunque? Quindi... No, dico dunque? Sparito. È sparito? Che ha fatto Giovanardi? È morto? Che ha fatto? Che è successo? No, beh, poi... Che è successo? È no, morto. Comunque Giovanardi dal punto di vista della logica, pronto? Applica il diritto canonico, tu. Carla da Torino. Carla da Torino. Buonasera. Dica. Oh, meno male che riesco a parlare. Dai, dimmi. Allora, sentimi, per dire due cose. Primo, agli italiani... Vabbè, non si sente niente. Alex da Roma, dai. Alex da Roma. Buonasera, Cruciani. Dimmi, Alex, dimmi. No, volevo dire riguardo alla vicenda dei Nutri che è stato estradato oggi in Italia. Sì, è una vicenda che fa ridere secondo me tutto il mondo, perché e dovrebbe comunque preoccupare noi che siamo i cittadini normali, perché la magistratura è riuscita a inventare un reato che non esiste. Vabbè, è una cosa lunga questa, però adesso non voglio riprendere la stessa discussione sul concorso esterno, eccetera. Sì, ma, cioè, non è che possiamo discutere oggi del concorso esterno, in parte le do anche ragione, dopodiché punto, ormai facessero una riforma, proponessero una riforma, non lo so, cioè. Ma infatti sì, il problema qual è però? Che diciamo, questo poi implica diciamo, il discorso delle tifoserie, cioè mentre a sinistra stanno pure contenti che così una volta stanno dando il ma non gliene frega niente a nessuno, ormai Berlusconi e Forza Italia è abbastanza marginale, per cui la vicenda dell'Utri passa in secondo piano, abbiamo recuperato Giovanardi, eccoci qui Giovanardi. Eccolo. Che era successo Giovanardi? Che era successo? Uno di quegli imbecilli o ignoranti. La lobby gay ha fatto cadere. No, questo non l'ho detto. Ha fatto cadere la linea, la lobby gay. Vabbè, comunque questi due devono rimanere sposati, secondo me. Perché lui applica il diritto canonico. Vabbè, al capito, diritto civile, non è che applica il diritto canonico. È che... Sì, cioè lui usa il criterio, per carità, anche al corretto del diritto canonico, per cui per il diritto canonico tutto quel che avviene dopo il matrimonio non ha nessuna incidenza, a meno che non ci siano fatti gravissimi. Per cui vabbè, nel diritto canonico. Mica è contro il divorzio, Giovanardi, mica è contro il divorzio. Certo, il diritto canonico è più civile di quello civile. Vedi? No, ma che più civile, Giovanardi, non ammette il divorzio lui il diritto canonico, su, dai. Il diritto canonico ammette il riconoscimento della nullità. Vabbè, del matrimonio, ma è diventata una buffonata, dai. Non c'erano i presupposti. Non mi dica che la Sacra Rota è una cosa seria, dai, è una buffonata, dai. Gli annullamenti di matrimonio con la Sacra Rota sono una buffonata inaudita che servono solo a oliare un sistema. Beh, insomma, ragazzi, c'è ancora ancora la chiesa d'Inghilterra lì dopo qualche secolo proprio per una questione di questo genere. Vabbè, comunque sono una lei sa benissimo che l'annullamento dei matrimoni di età attraverso la Sacra Rota sono una mezza buffata. Non è l'annullamento, è il riconoscimento della nullità. Ma sì, vabbè, d'accordo. È una procedura, però lei sa bene che insomma vabbè, se non teniamo da ricottavo su cose sì. Che costruite la storia del mondo. Vabbè, ho capito, ma se, che in Italia sia diventata una roba, una mezza buffonata la questione della Sacra Rota, ormai è notorio e lei potrà difendere quello che... A chi? Ma è notorio a tutti, su Giovanardi. Si paga, se uno vuole si paga, ci sono quattro testimonianze farlocche e via. Dai. Ma come no, direbbe sì. Il mio amico Razzi, non credo. Ma non credo. Vabbè, Giovanni, senta, le posso che vorrei andare in vacanza con Giovanardi questo. Ma perché? Ma è lui che non ti vuole, è lui te lo dico d'amico. Fatti i cazzi tuoi. Ecco appunto, fatti i cazzi tuoi. Mi piacerebbe dare due giorni, gli ultimi giorni di luglio, quando abbiamo la trasmissione della Zanzara, no? Fino a fine luglio. Sì. Gli ultimi due giorni al mare con Giovanardi. Allora, bisogna essere in due, eh? Ecco appunto, dico. Questa decisione, qui ne manca uno. Senta, lo sai che cosa ha detto la compagna di Berlusconi oggi in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, al Corriere della Sera? Il centrodestra deve battersi per le unioni civili. Cristo non fa differenze tra gay e etero, basta con il bigottismo ipocrita. Hai capito? Si vede che la signora frequenta poco il Vangelo, la Bibbia, gli Atti degli Apostoli, San Paolo, forse se l'avesse letti avrebbe letto qualcosa di leggermente diverso, ma comunque c'è sempre tempo per recuperare. No, ho capito, però Cristo ha detto, dice la Pascale, ama il prossimo tuo come te stesso, non ha insegnato a fare differenza tra gay ed etero. Questo è il Vangelo alla Pascale. Il Vangelo alla Pascale è stupendo. Ecco, Pascale. Mi piacerebbe se il centrodestra aprisse un po' la testolina per dire siamo liberali fino in fondo e non soltanto quando ci interessa o quando ci fa comodo. Assolutamente, vorrei aprire un dibattito sull'utero in affitto. Vabbè, questo che c'entra? Perché con la Pascale l'utero in affitto? Scusi, che c'entra? È quello di cui si sta parlando proprio, abbiamo parlato più volte, l'obiettivo è quello. No, però la Pascale adesso no. Le fattori della produzione, ma non parla, adesso la Pascale non parla di queste cose, dice sostanzialmente... sono le conseguenze di queste cose. Sa che il mio collega, lo giudice, è arrivato adesso in Commissione Giustizia dagli Stati Uniti con un bambino in braccio. Beh, stupendo, no? Fatto con affitto, l'utero in affitto e quindi attraverso un meccanismo dove in India o nei paesi poveri... Cioè le fa schifo tutto questo? No, sì, che si comprano delle povere ragazze... Sì, ma le fa schifo quello che ha fatto lo giudice? Lo considero una cosa assolutamente sbagliata e considero una mercificazione quella di andare a comprarsi col denaro in giro per il mondo dei bambini. Cioè lui, lo giudice, ha fatto una mercificazione. Lei ha detto, considera la mercificazione parlando del caso lo giudice. Di chi piglia delle donne e le paga... per farsi fare una gestazione. La stessa cosa ha fatto lo giudice. No, giudice dice che ha trovato un'amica che l'ha fatto gratis. Vabbè, ma lei ci crede? Non lo so, come direbbe Razzi, non credo. Comunque alla destra, dice la Pascale, alla destra vorrei dire approfittiamo allora che c'è un Papa liberale. C'è anche il Papa liberale, perfetto. Francesco sarà gratificato di questo riconoscimento. Papa liberale. Sì, devo dire la verità che la Pascale si è un po' allargata la Pascale. Diciamo che si è un po' allargata, che ha mostrato significative aperture verso divorziati e omosessuali. Qualche caro Giovanardi dice che questa intervista insomma nasce per alcuni motivi, cioè, perché lei è molto vicina al mondo omosessuale, così qualcuno che sospetta, qualcuno che sospetta. Non credo. Allora, famiglia cristiana se la prende con Giovanardi dicendo che Giovanardi vuole tutti in galera sulla questione della droga, eccetera, eccetera. Allora, famiglia cristiana. Non l'Unità, il Manifesto. Addirittura credo abbia scritto che Giovanardi va sotterrato, se non sbaglio. Giovanardi, è vero? Il giornale e Gasparri hanno scritto che io ho liberalizzato la droga, che sono un traditore, che mi sono venduto per appoggiare Renzi, quindi la nuova legge di cui sono stato relatore. Vabbè, lasciamo perdere. Cedimento totale alla liberalizzazione della droga. Vabbè. Questo dicono loro. Famiglia Cristiana dice esattamente il rovescio, un certo Anfossi. Anfossi. Un certo Anfossi. Sì. Ha scritto anche lui una virudela, anche lui una roba. E io mi sono sentito in dovere di rispondergli, ve la leggo, poi me ne vado perché ho una cena importante a cui devo partecipare. Com'è? Ho scritto, Famiglia Cristiana non ha buona fama. Lì Anfossi mente, calunnia e sputtana. Con grande gioia di chi spaccia tradimento ha cancellato il settimo comandamento. ma le bugie hanno le gambe corte per chi conosce la legge e la sentenza della corte. Il tossico è un malato e va curato. Chi ruba la vita va condannato. Scusi, però il tossico è un malato, Giovanardi? Il tossico è un malato, il tossico è un malato. Il tossico malato è uno che ha un vizio. Uno che ha delle patologie che con un percorso di recupero molto difficile, molto in salita, ne può uscire. Cioè, sì, però io la reputo una persona veramente intelligente, Giovanardi, però sì. C'è una cosa, e penso anche che da quel confronto televisivo lei sia uscito alla fine trionfatore, perché di fronte a Arcigoria, francamente, insomma, lasciamo perdere quello che ha fatto recentemente sulla 7. Però io ancora non riesco a capire come lei possa equiparare le droghe leggere a quelle pesanti. Io, francamente, ecco, questo qua è una cosa che divento pazzo. Ma non lo sono io. Ma no, ma adesso lasci perdere. Lei va a prendere il documento delle 36 maggiori comunità scientifiche italiane. Ma non è la stessa cosa. Un mese fa spiegano in 20 pagine perché i principi attivi della marijuana di oggi, non quelli di 20 anni fa, i principi attivi. Ma se uno si fa 20 canne al giorno è normale che sia così, ma no? Lei non alla salute, ma lei non può dire che una canna è uguale a una siringa di eroina. Se i tossicologi, gli scienziati, le comunità scientifiche mi dicono invece che non è così, gli do retta. Secondo lei farsi una canna significa farsi una... Quella di 20 anni fa? No, e su questo sono d'accordo. E quella di oggi? Significa farsi una siringa di eroina. Ma, secondo lei perché al giorno d'oggi, no, ma la domanda, fa, la domanda il è il Parlamento molto... che è dominato dai grillini e dalla sinistra ha messo i cannabinoidi sintetici in tabella con la cocaina e con l'eroina? Vabbè. Secondo lei perché? Però lasci perdere le cose tecniche perché adesso. Io sto dicendo, secondo lei farsi una canna è lo stesso che farsi una siringa di eroina secondo oggi? Secondo me farsi una canna è un rischio per chi se la fa. Vabbè, ma per i bambini, per gli adulti che sono rimasti negli ultimi tre anni vittime di incidenti stradali provocati da chi si è fatto la canna e li ha ammazzati. Sto dicendo, secondo lei farsi una canna è la stessa cosa che farsi una spada, come si diceva un tempo, te lo ricordi, allora, Lorenzo? Una spada. Qualunque ragazzino che se una volta nella vita si fa una canna, sì, può non avere conseguenze, come però, dire una pasticca di ecstasy che non gli può capitare nulla. Beh, può anche lasciarci le penne, però. Vabbè, allora chi un ragazzino si fa di canne, ma si fa di canne, secondo lei è come se si fa di eroina con il cervello, con le funzioni cerebrali. Ma quello può essere in alcuni casi con le funzioni cerebrali compromesse. D'accordo, quello può darsi pure che una lunga esperienza di non lo dico io, perché a me che me ne frega. Scusi Giovanardi, lei non può dire che una canna ogni tanto è come farsi l'eroina, perché non è così. Canna ogni tanto per un ragazzino gli mette a rischio a 18 anni, quando arriva a 18 anni c'è le funzioni cerebrali compromesse. Ma no, ma non è sempre così, dipende. Ma comunque non la può paragonare, non la può paragonare, non la può paragonare alla droga pesante. A livello scientifico serio, che non sia uno stregone. Non quelle dello stamina, qualcuno di serio, perché l'Italia è il paese dove si corre dietro la stamina. Ma lei non può paragonare l'eroina all'hashish, sono due cose diverse. No, io lo paragono perché gli effetti dei principi attivi di oggi, di THC, contenuto nei cannabinoidi, sono gli stessi dell'eroina. Ma che siano devastanti è una cosa, che possono essere devastanti è una cosa, che possono essere uguali all'eroina non è così, oggettivamente non è così, o come la cocaina. Un attimo, poiché in Italia sia che uno si faccia di cocaina, cioè, ma se suo figlio si facesse chi si faccia di cannabis non viene penalizzato. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso. Non essendo reato, meno male. Né la cocaina, né l'eroina, né la cannabis, non è il problema. Saranno gli spacciatori che vengono colpiti. Scusi un attimo, gli spacciatori, Giovanardi, di cannabis possono agire impunemente e andare davanti alle scuole figlio, a dare cannabis ai ragazzi. Se suo figlio le dice mi faccio delle canne, due o tre canne a settimana, lei lo considera un malato? No, mio figlio, se mi avesse detto una cosa così, la smette immediatamente di farla, l'assicuro io. Ma come la smette? Come fa a smetterla? Come fa a smettere di farla immediatamente? Genitore ha tutti i sistemi così per farlo smettere. E come? Per esempio, lo lega al termosifone. Che fa? Lo lega? No, che fa? Lo picchia? Guardate, no, c'è la segnalazione in prefettura, adesso nelle scuole. Ma cioè lei segnalerebbe in prefettura suo figlio? Certo, ma no, Giovanni, venite con me nelle comunità a sentire i ringraziamenti dei genitori che hanno salvato i figli prima che cadessero. Cioè, se suo figlio le dice mi faccio le canne, lei va in prefettura e segnala suo figlio. Questo meccanismo infernale, se non viene precocemente interrotto quando c'è siamo tempo, alla follia, dai, distrugge la vita delle persone. Lei sta dicendo una cosa incredibile, che suo figlio se a scuola lo beccavano a base di canne. No, lei ha detto che se il preside a segnalarlo in prefettura. prefettura. No, io segnalo mio figlio in prefettura. Lei ha detto se va cosa. Alla Padania libera. No, lì sì lo segnalo in prefettura mia, io. Altro che dai. Cioè, se lo dice a lei, lei va in prefettura. Lei va in prefettura. Se un figlio incomincia a drogarsi. Ma drogarsi è molto difficile, perché poi i drammi delle famiglie. Cioè, lei denuncerebbe suo figlio alla prefettura se lui dice mi faccio qualche canna. Ma lei la conosce la tragedia di decine di migliaia di ma non succede, ma non cambia niente con la prefettura. No, rovinate le figlie che si drogavano, arrivati fino al padre o la madre, scusa, ad ammazzare il figlio o i figli ammazzare il padre. Ma quello madre, quelli erano tossicodipendenti cronici, non gente che si faceva le canne. Ma bisogna impedire che diventino cronici e per impedire che diventino cronici si denuncia in prefettura. Sì, anche con la prefettura, la legge lo prevede. Vabbè, anche i germani lo fanno, i suoi figli e bloccandogli. Vabbè. Quando si incamminano sulla strada micidiale della droga, bloccandoli finché sono in tempo. Ma che c'è il traffico? Quando poi diventa una tragedia familiare terribile. Giovanni, abbiamo modo di riparlarne. Vada alla cena. Chi ha cena lei? Che cena è importante? Stasera io sono plebeo, però sono presidente di un'associazione. Che associazione è? Di quelli che sono i commendatori, i grandi ufficiali. Grandi ufficiali, ma la roba dei lobby, la roba di massoneria. Ufficiali di che cosa? La roba di massoneria. Ma la roba di massoneria. Capo roba della Repubblica Italiana. Roba di no, ma chi c'è? Dove? Le vengono date dai capi dello Stato. Vabbè. A persone per bene. La zanzara è quell'odioso insetto. Ormai è tutto finito, degradato. Tutto degradato, beh certo. Chissà cosa ne pensa il professore di questa intervista della signora Pascale, della signora Pascale, intervista clamorosa della signora Pascale, che mostra grande attenzione nei confronti del fenomeno omosessuale, del fenomeno gay. Insomma, la compagna di Berlusconi dice che il centrodestra deve battersi per le unioni civili, cioè detta proprio un programma, amici miei. Cristo non fa differenze tra gay e etero, questa è grossa però, basta con il bigottismo ipocrita. Cristo ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Non ha insegnato a fare differenza tra gay ed etero. Ecco, mi piacerebbe se il centrodestra aprisse un po' la testolina per dire siamo liberali fino in fondo e non soltanto quando ci interessa o quando ci fa comodo. Avete sentito il signor Juvanar che cosa ha detto? Il Vangelo secondo Pascale. Marco da Bologna. Marco da Bologna. Sì, ciao, buonasera. Vai Marco. No, vero. Marco, ma Danco sempre contro a Giovanardi. E sì. Stasera invece voglio sapere se è stato tutto di rondalla che è stata recitata in maniera pietosa o se ho preso l'aperitivo, però voglio dire stavolta ero d'accordo con lui. Quindi su che cosa? Sul discorso del fatto che se un uomo si taglia l'uccello diventa una donna. Cioè, si può. Beh, su questo non c'è dubbio, questo si è trasformato in una donna. Fisicamente o legalmente? Cioè io una donna si mette un bastone in mezzo alle gambe e diventa un uomo, cosa vuol dire? Vabbè, cioè, adesso, il matrimonio è valido. Ma sì, ho capito, ma io sono d'accordo che questi due devono restare sposati. Cioè, è che io non posso essere d'accordo con Giovanardi che si approfitta del fatto che a dire delle cazzate non si muore. Cioè è la sagra dell'idiozia, poi te sei bravo che gliene tiri fuori tutto, c'è cioè la marijuana che si fa in vena coi cellule qua. Cioè, se le droghe leggere fanno dei danni al cervello irrevocabili, lui qua che non se le fate, come mai che è diventato così? Come mai che ha una frequenza nello sparare cazzate che è a 50 euro? Scusi, su questa cosa qua però, se ne faccia una ragione, lei la pensa come Giovanardi? Cioè sulla questione del... Giuseppe, però veramente io non ti ho neanche mai offeso però, cioè, no, ma adesso non è che ti sto offendendo dicendo che la pensi come Giovanardi, dai. Mica da modenese noi siamo abbastanza... Sai cosa ha detto Renzi 2 minuti fa? Nel momento in cui Orsoni patteggia... No, 2 minuti fa no, non so, qualche ora fa. Nel momento in cui Orsoni patteggia e che quindi si dichiara colpevole, che peraltro non è così... Non è così. È ovvio non possa più andare avanti nelle istituzioni. Cioè, capito? Cioè... È esattamente il contrario invece. Bah, cioè quello che sta avvenendo a Venezia, mi dispiace per Renzi che magari dalla Cina con furore non ha seguito le vicende. Comunque al fuso orario cinese si vede o ha mangiato troppi involtini primavera. Perché invece quello che dice Orsoni non aveva nessuna intenzione di dimettersi, si è dimesso perché aveva annusato che il PD lo avrebbe fatto cadere, ma lui rimane della sua linea, i giudici hanno accettato. No, ma la linea è quella che è il partito, l'intero partito democratico Veneto, e questo è lo scandalo che si dovrebbe aprire. perché nessuno ne parla. L'intero gruppo dirigente del Partito Democratico in viene Veneto, messo sul banco di voi dallo stesso Orsoni, sì, peraltro. Che dice, loro mi hanno detto che Brunetta c'ha un sacco di soldi. Loro mi hanno detto che Brunetta c'ha un sacco di soldi, dunque bisogna raccogliere denaro. Va benissimo, però bisogna farlo in maniera legale, raccogliere denaro, cioè bisogna chiedere i soldi, metterli a, no? Ora può essere che il PD poi a un certo punto, come dire, questo è quello che dice, ma io non lo so se non sapeva la vicenda. No, scusa, ma perché devi andare a chiedere soldi a Mazzacurati? Cioè, perché devi andare a chiedere soldi ai signori del Mose che prendono soldi peraltro dallo Stato? Perché devi chiedere soldi a quelli? E questa è la follia. Chiedi soldi agli imprenditori e mettili in ordine, mettili regolarmente a bilancio della campagna elettorale. Ma no? Ci mancherebbe. Questo bisogna fare se uno è normale. Se uno è un delinquente, no! Alessandro da Brescia. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sulla Lega Nord e poi sul trattamento scandaloso che lei riserva continuamente ai Rom. Io trattamento scandaloso? Molto bene, sì, molto sì, bene. Sì, decisamente sì. Sì, sulla Lega Nord mi sembra strano che lei si stupisca delle dichiarazioni di Salvini, perché sono anni che nei nostri territori la Lega si allea continuamente con l'estrema destra, con i neofascisti di Casa Pound, con i neofascisti di... Vabbè, ma questo non c'entra niente col tifo per l'Italia, sono due cose diverse. No, c'entra invece, perché è un modo per strizzare gli occhi al nazionalismo, no? E quindi adesso le dichiarazioni contro gli oriundi. Sì. E sui Rom invece volevo dire che lei è molto bravo, no? Con le sue manfrine. Senta, con che ci siano nei campi Rom e tra i Rom, no, in Italia. Fallo finire. Magari lei non conosce molto il tema, no? Dovrebbe far parlare anche persone che l'hanno approfondito. Okay. Infatti, qui siamo alla prima. Esatto. Allora, dica. No, siccome lei è molto bravo a scagliarsi contro l'omofobia e contro la discriminazione nei confronti degli ebrei, dovrebbe ricordarsi che nei campi di concentramento sono finiti 500.000 rom. Ma che c'entra quella questo? Cosa si è chiamata Borraino. Ma che c'entra? Mica io dico che bisogna mettere i nomadi o i rom nei campi di concentramento. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, soy stanco como una muchachita. Dai. Baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. Allora ragazzi, davvero da non credere, il grillino Fico, quello della presidenza della commissione, là, della vigilanza sulla RAI, sì, presenta un'interrogazione per la, ti giuro, un'interrogazione contro la presenza di Monica Maggioni al Bilderberg, al convegno del Bilderberg. Quindi ti giuro. Hai seguito gli ordini di Mandarà, anzi la richiesta del signor Mandarà. Tutti i personaggi su cui tu hai una grande responsabilità, No, perché? Scusa. Carrozzone che hai messo in piedi in questi anni. Un grande carrozzone messo in piedi. Cosa vuol dire? Al signor... Vuol dire che questi personaggi che prima al massimo navigavano nell'ombra della rete al massimo, ora, grazie a questo media, questi 2 milioni di ascoltatori, sono diventati... Ma gente mi ferma per strada e dice, Mandarà. Dico, ma come? Ma era un... Ma vecchietta, gente anziana, qualunque, che mi ferma e dice, Parenzo, la capisco, Mandarà. Dico, ma lei come fa a sapere? Ascolto la radio. Dico, ma prima ne ignorava l'esistenza. Certo, è il carrozzone che hai creato tu. Questa gente che hai a cui hai dato microfono, per carità, siamo democratici, però, Mandarà. A proposito di Mandarà, è lui che vuole, come dire, incriminare tra virgolette la signora Maggioni, direttore di Rai News 24, perché è andata al Bilderberg. Sentite. C'è una legge, la legge Anselmi dell'82, che vieta le riunioni segrete, dove siano segreti i partecipanti o gli argomenti di cui si discute. Allora io chiedo una commissione parlamentare che chieda al senatore a vita Monti che cavolo è andato a fare in quella riunione, e chiedo a Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI, di convocare immediatamente Monica Maggioni. Io vado a fare lo streaming se vuole, perché gli italiani devono sapere che cazzo è andata a fare Monica Maggioni in quella riunione. Capito? Stiamo sempre parlando del signor Mandarà. Che hai fatto? Che hai fatto? È impazzito. Sto anche questo male, guarda. Tossisce, è impazzito adesso, completamente. Vediamo che altro mostro. Sta tossendo, è una cosa. Beh, sto male. Ma dai, su, dai. Bevo. Davide? Ma no, si stava morendo, scusa. Ma ho capito, ma sei una cosa incredibile. Tossisci in diretta. Bevo. Dai. Tossisci in diretta, bevi, fai qualsiasi cosa, dai. Ah, dai, su, dai. Mineo, Renzi usa metodi come Grillo e Casaleggio. Ha ragione, beh, Conrad. Arriva, arriva Mineo. Mineo, Renzi usa e dai, raga, su, forza. C'entra anche il fatto Mineo, Mineo chi, Mineo del Manna, perché effettivamente Renzi usa dei metodi di comunicazione con questa pancia del paese simili a quelli di Grillo e Casaleggio, però questo è pericolosissimo secondo me e io gli consiglierei più attenzione. Oh, eravamo con chi eravamo? No, eravamo con un ascoltatore prima, eh? Eravamo con un meraviglioso ascoltatore che si chiama, no, non c'è più quello di prima, ragazzi, su, dove cazzo è? Fabiano da Bologna, dai, chi c'era? Alessandro da Brescia, Alessandro da Brescia, dai. Sì, Alessandro, sì, pronto. Allora? Pronto. Dai, dimmi. No, le dicevo, adesso così finisco il discorso, no? Ok, le dicevo che i rom in Italia sono più di 100.000. E soltanto una piccolissima parte vive nei campi rom e non ci vive per propria volontà, ci vive perché costretti come bestie nei moderni lager. Ma quali mostri? Ma quando mai? Nessuno è costretto da nulla. Lei conosce Andrea Pirlo? Lo conosce? L'ha mai sentito nominare? Esatto. No, conosco Andrea Pirlo, conosco quello della Nazionale, no? Andrea è rom. Lui, esattamente. Lui ha, per esempio, ha origini sinte, che sono una delle tante declinazioni delle gente. Vabbè, ma non me ne frega niente adesso. Qual è il problema? Ma certo, ma chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Lei non può permettersi di guardare una cosa, di dire che ci sono molti ladri? Che ci sono molti ladri? Non lo posso dire? Come può permettersi di parlare di centinaia di migliaia di persone e chiamarle ladre? No, non ho mai detto così. Non ho detto così, non ho detto prima della Shoah. Lei è fuori di testa, lei è fuori di testa. Lei è fuori di testa. Esattamente. I rom e gli ebrei sono finiti nei campi di concentramento esattamente per questi discorsi, gli stessi discorsi che fa lei. Cioè lei sta dicendo che io sto criminalizzando i rom e sono come i nazisti. Lei li criminalizza ogni volta che ne ha l'occasione, perché è ignorante ed arricchito, che sono due cose che insieme fanno una persona ignorante ed arricchito, benissimo. Cioè quando io parlo di fatti concreti e di episodi concreti che sono legati alla criminalità nel mondo rom, nel mondo dei nomadi. No, non si preoccupi, gliele presenterò le statistiche. Adesso non ce l'ho qua sotto mano. No, ma non si preoccupi. No. Quando io dico una cosa del genere, quando io dico una cosa del genere, sono come i nazisti che voglio additare, come dire, all'odio i rom e i nomadi. Lei addita i rom di essere ladri in quanto rom. No. Delle persone che vivono in condizioni incredibili. Questo lo sta dicendo lei. Questo lo sta dicendo lei. Come vivono queste persone? Ma che li faccio vivere io così? Che li faccio vivere io? Ma che li faccio vivere io così? Che li faccio vivere io così? Vogliono vivere così la maggior parte delle volte. Ma quale rispetto dello Stato? Non c'entra nulla. Perché mi sa che anche su questo è piuttosto ignorante. Non si preoccupi. Vado a vedere come vivono i gitani in Spagna. Sì, certo. Come vivono i rom nel resto d'Europa. Quando oggi soltanto una ristretta minoranza vive in campi rom e la maggior parte vive in case di muratura. Sì, vado sì. a chiedere a Santino Spinelli, docente universitario rom, come vive, se vive non in campo rom. Non si preoccupi, lo conosco benissimo Spinelli. Vado a leggersi la vita di Django Reinhardt, al posto di sparare minchiate senza sapere nulla, di una cultura che ha... In Italia, io non ho parlato né di cultura, né ho detto che i rom sono ladri. Lei sta facendo tutto da solo. Lei lo dice continuamente. No, lei si sbaglia. Io non ho mai detto i rom sono ladri. Non ho mai dato questa definizione. Non ho mai dato questa definizione e non mi permetterei mai. Lei dice che i rom nei campi rom non vogliono lavorare e aspettano che gli venga data casa gratis. Questo mi sembra un dato di fatto. Per la stragrande maggioranza sono italiani che non godono di diritti, che godono i normali italiani. No. Perché quando lei cerca quando lei troppo cerca lungo, lavoro troppo ed, lungo troppo lungo no, non è troppo preoccupa. Lungo no, è lei troppo che non lungo il cazzo, discorso non riesce a tenere un confronto no ma ecco. Non si preoccupi Alessandro, lo so tenere benissimo il confronto, lo so tenere benissimo il confronto, non si preoccupi, lei pensa di essere il grande esperto del mondo Roma, cosa che io non sono e non ho detto nulla, ho solo citato qualche episodio e qualche dato nel passato per dimostrare che c'è un alto tasso di criminalità, non ho detto che sono criminali, avete creato sono una etnicamente... letteratura dell'odio sì, su questi vabbè, sui Rom d'accordo. E tu hai contribuito in sì, parte certo, a creare una letteratura dell'odio vabbè. Costruita attorno a questi perché fanno schifo no a voi perché, fermi perché tutti, girano fermi sono tutti. Sporchi abbiamo per con voi. Noi Paolo Barnard grande ancora. Richiesta buonasera agghiacciante agghiacciante ma cosa agghiacciante questa non è una buonasera è una serata agghiacciante. Ma perché agghiacciante? È una trasmissione agghiacciante. No, però scusi, Barnard, lei ha, a me fa morire da ridere, ha dai, definito. Scusi, professor Barnard. Taci, Parenzo, affogati, sei uno vero. Ma scusi, lei ha definito Draghi. Ma lei vuole uscire dall'euro? È pazzo, no, ma non solo. Ha definito... Parenzo, sei all'IKEA, reparto spazzoni da water. Però okay. Scusi Barnard, okay, lei ha definito dice, Draghi okay, come il più grande criminale dell'economia, com'è possibile? Mario Draghi ha fatto ecco. Un atto monetario criminale sì. Contro l'economia di tutti i paesi dell'Unione Europea, dell'Eurozona in particolare, ok? Ok, niente, nulla. Taci, tecnocrate della radio, sterco di cane, servo del potere di Confindustria che genera austerità, economicidio, chemiotassazione. Ma ancora costate chemiotassazione. Okay? Ma che ha fatto di criminale sto Draghi? Radio, ma ti rendi conto? No, ma incredibile. Allora... Draghi, per colpa del signor Draghi, sì? La politica economica non tira più. Non sì. Tira più. Vabbè. E per colpa dunque, della Troica, sì. E per colpa del Fondo Monetario Internazionale, dei poi? Passi criminali, e per colpa dei tecnocrati delle banche vampiri, associazioni a delinquere che provocano solo distruzione. Si è abbassato i tassi, Draghi. Ha abbassato i tassi, Draghi. Sì, ma non ho capito, non abbiamo capito che ha fatto sto Draghi. Scusi, Barnard. Quel grande criminale dell'economia ancora. Che risponde ancora. Al nome di Mario Draghi, ancora. Massimo rappresentante sì? Del neonazismo bah, economico, ok? Ha deciso di acquistare gli asset back security. Ma che cosa? Che cos'è? Roba cos'è è? Che ha acquistato? Roba è? Draghi in sostanza compra sì. Il marcio delle banche vampiri e tutto ciò è agghiacciante, sì. Porta alla più grande catastrofe transnazionale, la peggiore rovina vabbè. Economica dell'Italia e dell'Europa dal 1948. Sì, vabbè, traduca, okay? Barnard, dobbiamo chiudere, traduca questa. Vuol dire che mentre i ladri sì. Di polli ti rubano le 5 galline dell'Expo e del Mose, questi signori di Bruxelles e di Francoforte ti fottono la vita sì. Provocando una condizione di gold finanziario. E dunque, okay. E quindi? Ok, ma ok, niente, quindi ok, tutto ciò tutte le volte. È antiparlamentare, anticostituzionale, antidemocratico. Vabbè, okay? Arrivederci, ok, sono un cazzo. Sono dei passi criminali. Vabbè, okay? Arrivederci, Barnard, okay? Arrivederci, ok, sì, sempre che sto ok. Vabbè, incredibile, Paolo Barnard. Poi non capisco perché la gente impazzisce per sentire sto Paolo Barnard. Vabbè, comunque. Abbiamo con noi il mitico Bebo Storti. Ciao Bebo. Buonasera a tutti, buonasera. Caro buonasera. Bebo, come andiamo? Spero che da domani anche tu ti metterai a fare un grande tifo per la nazionale azzurra, per la nazionale italiana. Che dici? Ma io, se posso dirti. Sì. Tanto mi piace il calcio, tanto mi piace il calcio che gioca mio figlio con una squadra sì. Più piccola. Sì, sì. Tanto ho amato questo sport. Sì. Tanto, se posso dirlo così, francamente, in maniera chiara, diretta, sì, sì. Mi si passi il francesismo, non me ne frega un cazzo di questi calciatori strapagati sì. e che non sono più quello sport. Sì. Guardavo oggi un documentario su sì. YouTube su Giacinto Facchetti. La differenza che c'è fra la signorialità, la grandezza di quei campioni di una volta, ma non stiamo parlando di 200 anni vabbè, fa sì. Ma è la nazionale Bebo su cioè, no, te, tu mi stai dicendo no, non mi interessa, no, non mi interessa. Cioè, tifi contro l'Italia alla fine. No contro l'Italia no io non ho detto che tifo contro l'Italia, non mi mettere in bocca parole che non dico, io non tifo contro l'Italia. Aspetta, che succede che non ti sento bene Bebo, scusa, dicevo, avvicinati un attimo. Dicevo che non ho detto che tifo contro l'Italia, dico che sono disgustato da questo tipo, da questo calcio. Da vabbè, questo calcio sei disgustato. Che cioè, a te dei mondiali non te ne frega un cazzo, diciamo la verità. No, a me piace il calcio, guarderò qualche partita, quelle che mi capitano. Magari se me lo chiederanno i miei amici, mio figlio. Cioè, ma questa Italia ti fa schifo o no? Questi calciatori dell'Italia ti fanno orrore? Ma c'è Balotelli che mostra tutte le, Balotelli che mostra tutte le sue ricchezze, no? Tutte le... io non l'ho detto questo. No, lo dico io, la Balotelli che mostra tutte le sue ricchezze. Ma tutti i calciatori sono così, non è solo Balotelli, tutti i calciatori d'Europa e del mondo sì. che conta, del mondo calcistico che conta, attenzione. Sì, sì. Sono così, hanno perso il senso di misura, la gente fa fatica ad arrivare alla seconda, no? Alla quarta settimana. Tra l'altro oggi c'è scritto una cosa incredibile, Parenzo. Eto'o, il centravanti del Camerun, sì. affitta un posto a parte, diverso dagli altri giocatori africani, a circa $3,000 a notte. Vabbè, ne paga quindi... lui 2006 di tasca sua, gli altri dalla federazione. Dov'è il problema? Una suite di 190 metri quadrati. Vabbè, con idromassaggi, delle cose pazzesche. Ma tu scusa, non sì. sei un liberale, se vai sì, con i soldi suoi potrà fare quello che gli perché pare, perché non stai ai mondiali in Brasile, ma stai coi tuoi a livello dei tuoi. Vabbè, questo, spendi 3,000 euro a notte, dai, su. Ma perché tiri fuori improvvisamente questo senti, pauperismo? Bebo, ma che ne pensi del che ne pensi di Renzi che fa? Sei un liberale, sei. No, io sì. No, ma io no, ma io dico, sono liberale. Ma voglio dire, ma tirare fuori questo pauperismo. Ma che c'è? No, io ovviamente sono un liberale, non babbo liberale. Ma voglio dire, ma no. Però mi fa un po' pelo, ma è peloso. Uno questo, vai ai mondiali e stai in stanza con i tuoi amici. Non vai ad affittare una suite a $3,000 al giorno. Dai, su, insomma, è tuo. Quello del Camerun, dai. Queste fanno le starlette. Dai, è uno schiaffo. Ma uno schiaffo a chi? Tu lo dici, ma certo schiaffo. Ve lo dico io. Non ti indigni per i rom e adesso fai la mammoletta con questa Vabbè, roba Bebo. Del povero Eto'o. Ma certo, dimmi, Renzi. Che vuole far fuori questi che sono che non la pensano come lui, no? Mineo e gli altri. Che dicono che è una dittatura, sarà anche vero, no? Tu dici che è una dittatura, eh? Secondo me sì, lo è. Siamo nel Renzistan. Renzistan, bello, mi piace. Bello il Renzistan. Renzistan mi piace. Te la puoi giocare questa qua, Renzistan. Me la gioco. Cioè, oggi ci troviamo nel Renzistan, io sono convinto. No, continuiamo a parlare di calcio. Io trovo, se posso permettermi, dimmi. Che sia... Ma lo trovo da anni, non è adesso che lo trovo. Sì, poi sì. Sono anch'io tifoso, poi magari mi lasciano prendere il cuore e di notte allora, l'Italia. Sì. Ma non lo so, però io trovo, faccio veramente fatica a sopportare questo schifo, questo denaro, questa montagna di soldi che gira intorno ad uno sport che in questo momento, in questo preciso istante, per quanto sia divertente giocarlo e vederlo, non se li merita. Ci sono altri sport che sono belli. Per il cinema allora, scusa. Vabbè, ma bevo, quello dai. Che c'è. Ma non perché se me ne frega avere il cinema, sembra il calcio. Scusa. Ma sono industrie, sono come il cinema è un'industria, anche il calcio, no? Scusa. No, non è vero, non è solo quello. Non è solo quello. Il calcio è uno sport, nasce come sport, dovrebbe continuare ad essere uno sport, perché il cinema tuo figlio ce lo porti a vedere un film di merda o un bellissimo film. Senti. Il calcio invece è uno sport e va insegnato come disciplina di vita, e questo tutto è questo calcio, tranne che una disciplina di vita. Non dite cazzate, per favore. Senti, Bebo, ma come lo vedi questo Berlusconi in decadenza? Porra Stella, mi fa quasi pena, guarda. Ti fa quasi pena adesso? Quasi, sì. Adesso che conta... Che conta sempre meno. Stava a fare i suoi, chi per certi mani va, certi pesci piglia. Però ancora Renzi le cerca un accordo, Ti è piaciuta questa? Chi per certi mani va, certi pesci piglia. Bella, no? È saggia. Non male. Ti saluto e ti abbraccio. Ciao. Grazie, ciao ragazzi, ciao. Giuseppe da Cagliari. Giuseppe? Pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Io mi chiamo Giuseppe Davide, ho due nomi. Sì, che bello. Sono di Cagliari, ho ascoltato quello che diceva Giovanardi. Sì. L'ho sentito anche tempo fa, però non sono riuscito a comunicare. Dimmi. Purtroppo devo dirti che io soffro di crisi comiziali, cioè di epilessia, dall'età di 18 anni. Sì, da 18 anni sei epilettico, allora? E ho iniziato a usare la canna all'età di 27 anni. Cioè a 27 anni hai cominciato a usare le canne, hashish. Sì, e allora quindi... Oggi quanti ne hai? Ne ho 65. Vabbè, tu diciamo perché ti serve usare l'hashish, per che cosa? Serve. Per l'epilessia? È difficile procurarla, e poi è inutile che Giovanardi dice quello che dice, perché lui mente, sapendo di mentire, perché basta che si aggiorni, basta aprire internet e vede come l'uso della cannabis. Però tu lo utilizzi per un altro motivo, lo utilizzi per l'epilessia o no? Perché ti piace? Sì, ma mi piacerebbe anche usarla se fossi sano, perché ho iniziato a 27 anni, avevo già una laurea, io mi sono preso anche un'altra laurea e prima di laurearmi sono andato Giuseppe, l'effetto su di lei dell'hashish mi sembra positivo. Ci sentiamo quando è lunedì, dobbiamo sentirci, no? Per forza. Sì. Non andiamo in onda domani, no?